zero e sotto zero, non ti sentivo per nulla di giorni. Infatti sì, ma io qui non ci arrivavi, qui a Ottava. Vabbè, logicamente, avanti già. Oggi ottimo, oggi hai migliorato al 100%. Avanti già. Perché ha alzato l'antenna oggi? Meglio vai. Andiamo, se Torino è gratto, Torino negativo, avanti da tu. Cavino non è a Porto Torres, è sulla strada di Sorso. E comunque più Ottava, anche adesso arrivi bene, vai tranquillo tu, arrivi abbastanza bene, vai. Ha calato un po' il segnale, però la radio è ottima, pulita, avanti già. E dai, ci stanno tutti migliorando adesso, quelli che ci avevano antenne, diciamo, un po' spartane, ci hanno messo tutti l'antenna, anche Torino ci ha messo l'antenna, una buona antenna. Ho trovato la Mantova Turbo, cavolo, cosa che io l'ho cercata non l'ho trovata. Nella 5, nella 1, nella Turbo. E guarda, anche con quell'antenna che c'era da Torino, qui a casa era abbastanza bene. Torino c'ha l'antenna e c'ha Marco, Franco Malmo. È la stessa antenna, precisa, e qui a casa arrivava sempre il suo segnale, ottimo. Ottima munizione, vabbè, adesso con questo microfono c'ha la munizione, è bella più forte, più provocante. Già va bene, avanti a tu. Esatto, è basta sollevare leggermente, ma no, io ho sempre la stella che quest'anno finalmente la devo scendere a dare una bella pulita, perché ho la protezione della bobina tutta fra il freddo, il gelo, la spaccata. Dunque ci ho messo un guscio di bottiglia, l'ho isolata, e per il momento va bene così. A tempo buono, scendiamo, diamo una bella, la sistemiamo meglio, diciamo, vai. Avanti già, la tua è bella, ogni tanto la guardo, ottima. Ah, la mia è come la Mantova 1, è la stessa, anzi forse è meglio, perché da tutta la parte che si arrugginiva, tutta quanta in acciaio, capito? La parte che entra nel tubo è tutta in acciaio, dove vanno i radiali. Ma i radiali sono più grossi da soli, come? Sì, sono più lunghi anche, sono più lunghi, sono, i radiali sono fatti in due pezzi, uno che si unisce con l'altro. Perché non vedo bene grossi, vedo robusti da quando è stato col camion, capito? Va benissimo. E non è che tu qua sei sempre arrivato abbastanza bene, non ti posso dire al contrario, come segnale ultimo, come il radio stesso, avanti a tu. Le vecchie sono migliori, dai, le antenne vecchie. Guarda, tu adesso le antenne stai utilizzando? Allora, io ho iniziato con quel tipo di antenne, parlo 50 anni fa più o meno, ce l'avevo sui 12 anni, con l'antenna ce l'avevo buttata nel terrazzino del terzo piano dove abitavo io giù alla Torosi, buttata, e arrivava bene da tutto il verso, e arrivavo dappertutto, di ex nato, hai capito? Di ex mi ha arrivato, delle cassette piene di cartoline con quell'antenna, era ultima. Diciamo che tutto è cambiato, che bastava pochi passi, arrivare al ghetto, arrivare dappertutto, adesso è già, se non c'è qualcosa, se non c'è il bambino sotto, due volte non arriva neanche a sassa, non due volte. Comunque come antenna è l'ultima, non quella di, ripeto, l'ho usata e andava abbastanza bene, avanti già. Perché c'è inquinamento atmosferico, è normale, c'è più inquinamento, quindi troppe cose dell'aria ci sono, capito? Telefonini, prima non c'erano telefonini, io con portati ne parlavo dal ghetto, fatti un gozzo. Non posso immaginare, adesso guarda, io non ti voglio dire male, io abitavo, non so se c'hai di questi bombe da Torosse, questo è mio fratello, vabbè, adesso c'è mio nipote, e io abitavo più avanti, abitavo, io quando modulavo, detto dai clienti di mio fratello che consegnava le bombole, mi sentivo, non so se ti ricordi, prima vendevo gli stereo 2000, quelle casse marrone, parlo tanti anni fa, mi sentivo nelle colonie dello stereo, mi hanno sentito, in piazza Botteo, figurati, vicino Antonio mi sentivano, oppure le video ci soffrono, sempre fra piazza Botteo e via Botteo, era per io di dopo, adesso vorrei tutto cambiato, avanti in tu. Guarda, sinceramente non me la ricordo più, non so se l'avevo salita al monte dove abitavo io, via Fumagia, ma l'avevo lasciata nella soffitta, non lo so, ma non mi ricordo proprio adesso, perché io al monte c'avevo la, quella che faceva la 27 ai 45 litri, poi c'avevo, anche una pistola piazzata, un rosetto palo, è un dipolo, quella antenna forse è rimasta nella soffitta, comunque come antenna era ultima, ultima, abbastanza fuori, arrivavo dappertutto, arrivavo, avanti. Esatto, e come ha visto Manuele, Manuele sta usando un'antenna dentro casa, appoggiata sopra, non so se ce l'ha sopra più, l'info, appoggiata. E io, vabbè, pio pio, comunque l'ascolta Manuele, quando non c'ho meno QRM, l'altro giorno c'avevo QRM 67 e non sentivo, là, diciamo, ma oggi l'ho sentito, l'altra volta l'ho sentito nuovamente. E prende sempre l'antenna, prende anche il giorno e tutto quanto, avanti Gian. Anto, tornando al discorso della SuperLEM, io ho sempre usato antenne o LEM o Sigma, che secondo me sono le migliori. La LEM non ha mai fatto antenne che non servono, sempre le antenne buone, quindi la Turbo 2001, poi tutte le altre antenne che ha fatto, anche quella che ci avevate voi, te lo ricordi, era della LEM, quella lì, e andava bene lo stesso. Io le antenne che ho avuto sono LEM o Sigma, Sirio non ho mai avuto e altre marche non ne ho mai avuto. Ma anche io la Mantova 5 ce l'avevo un bel di anni, poi l'ho scesa, l'ho pulita, Fabrizio mi aveva messo il cavo più grosso per prendere più watt, per tenere più watt, e in più mi aveva cambiato la piastra dove si attacca il piede, me l'aveva rifatta perché era tutta arrugginita, poi l'abbiamo piazzata a 1 euro di stazionale, è andata per anni e anni ancora. No, già ce n'è la Super Regio, Firenze 2, la Stardust, ce n'erano di antenne anche prima. Ordinare, gli ho detto che cosa ordinare, gli ho detto Super LEM e Turbo 2001 e la Mini Turbo, gli ho fatto ordinare. Ecco. È stato un break, siamo arrivati a Carlo, avanti, buonasera. Buonasera Gianni, Antonio, sto andando al lavoro. Sul 23 ho chiesto di venire qua perché sapevamo che tu vai a lavorare, quindi per farti compagnia siamo venuti tutti qua. Ehi, grazie Gianni, chi siete? Siamo io, Marino Bombolo, c'era anche Tonino ma è andato a piccionciare al telefono. Ah, KK, sì, forse non ho salutato Marino allora, dai che mi ha fatto entrare pure. Adesso sono vicino a casa di Luca. Sto scendendo adesso, via Sorso. K, dai, ti facciamo compagnia fino a quando arrivi, oh Carlo, dai, riprendi Marì. Sì, ma stava quasi sparendo, stava a letto. In quale punto sei Carlo in questo momento? Prova a ripetere Marino, perché ero in zona d'ombra e ti ho sentito a pezzi. Adesso sono al semaforo, in via Pascoli. Sì, adesso sei quasi 9:10 qui a casa, ottava, ultima modulazione, ultimo segnale. Bene, avanti già. Sì, dai, anche da me arrivi bene, dai. No, ma Carlo, sino ad Alghero lo sentiamo. Io l'ho seguito l'altra volta, avanti Carré. Ehi, ha sempre fermo al semaforo, sta piovendo, maledizione, ed è fendi freddo, 6 gradi mi segna. Fitta se più vendi, avanti Antonio. Un attimo che c'è un break. Avanti questo break per un controllo. Ma vai positivo, attenzione, braccio di ferro da questa. Ciao braccio di ferro, nonché Franco Califano. Ah, mi hai riconosciuto. Ciao Gianni, ma mi hai ascoltato che sono in BM, dai. Sì che ti ascoltiamo, c'è anche Carlo in BM scendendo al game. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Franco, buonasera, ti sento benissimo qua, non so dove tu sia ma mi arrivi molto forte. Campo di positivo, io sono localizzato scendendo verso Papatango, dai. Alla pilota se vorrei, mi dico piacerà parecchio. Che anche tu mi ascolti, a tutto? Ecco che ti ascolto, sei quasi a fondo scala. Fra, a pescare sta andando. Ah, sto cercando a farmi un po' di tiro a calamari, dai. Mica è tutto chiuso là dove andavamo noi, era la parte del muretto puoi andare. No, ma io vado verso coso, verso Balai, quella zona, non ci vado lì. Troppo pericoloso, ci si vola troppo lì. E allora vai a Balai vicino, dove c'è la chiesetta che è illuminata il mare e ce ne sono lì. E infatti andrò lì, vai. Ah, finati la vicina a casa. Ciao, vado positivo, frate. Cazzo, non vado mai laggiù. Ciao, fa. Vediamo dove è arrivato Carlo. Carlo! Ehi Antonio, viale Porto Torres all'inizio, sono viale Porto Torres, ma hai alzato l'antenna Antonio? Caffa! Perché prima ho acceso un attimino a casa e ti sentivo forte di nuovo, Contento, adesso pompami Antonio! Gloria! La ripidine a mille che ci ha fatto salire! Parliamo un po' modestamente, ma già pompa! Ma va bene, già va bene Antonio, adesso niente, adesso sto girando attorno al cimitero e mi sto mettendo sulla strada che passa davanti a cosa, come ti si dice, Tanit. Quindi mi ascolti ancora a me, sì. Ehi a Franco, forte e chiaro. Dice che stanno tutti in silenzio, il vero è... No, non c'è casino, sono passato, neanche QRM c'era. Una mia collega una volta gli ho detto, ma non asciutti mai, sempre i papi denti, sì. E lei mi ha detto, se vuoi ti indietro, chi non fa bene, andi via San Paolo, questa è su Sicara, tolgo sempre battute. Andi via San Paolo e chi mi non fa bene da nessuno, e per silenzio. Aveva ragione. C'è ragione, già, la verità ha detto. Quindi, sapere che il tuo piccolo va bene. Ti zuzzichi con queste portate, sono troppo simpatici. Stiamo bene già. Questo è un apparecchio della mutua mia, tu. Dove sei arrivato, fra? E sono quasi all'ingresso subito di Papatango, qua. Di Papatango. Di Porto Torres, di Sagione Ottava, dai, sto entrando per Porto Torres. Capo di ga, c'è un bel forte, sì, ma sicuro sì. Vabbè, forte perché va giù lì all'attaccato. Ma quello piccolino sta usando, fra? Cosa? Quale sta usando? Quello piccolino da Veneciato o no? O l'altro? Il 5,50. Ah, ho capito, Tu stai arrivando abbastanza bene qui a casa, vabbè. Avanti, Carlo. Per me adesso sono dove c'è Conforama, dai. Sto per iniziare la quattro corsie. Cappa, dai. Già va bene Carlo, ma sei forte e chiasso. Ma è forte e chiasso Carlo? Benemeda, una quarantina ne ho di vitamine. Tu io sono l'unico che so con 4 watt. E perché io? Sono 2 watt e mezzo. L'unico che so con 4 watt su qui. Dai. Guarda che piccolo sono io già. Tu c'hai 4, io ne ho 2. Io sto facendo liscio, 2 watt. È ammazzo di nevaria, a te. Oia. Fatti sentire un pochettino di potenza. Ah, io fate da bravi, che consumate l'energia elettrica, se no. Ehi, già c'è lo sconto in bolletta. Guarda te, sono in macchina, quindi. Ah, se no. Conviene così, andare in macchina conviene adesso. In quanti siete in macchina, Franco? Non ho capito. In quanti siete in macchina? In due? È la giura. Ah, da solo sta andando. Sono io la macchina. Franco, riprende così, mi refresh. Vabbè, mi ha toccato la bagnetta, se ne va la calamare. Mi stavo annoiando, va. Ma sei sicuro che sei in chibi? Cazzo, mica c'è un bel forte, me. Cazzo, c'ho l'applicatore attaccato, a tu. Cazzo. Mica te lo puoi venti sera, ma fa che ti ne paria. Arriva, va a te, va a te. Prova la numerata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 9 qualcosa, la radio ultima. 5, super. Campo di positivo. Dai, vi saluto che sono entrato quasi all'ingresso da Tatango. Ciao Gianni, ciao a tutti, per me QRT. Se coincida più tardi. Ciao, ciao Carlo. Ciao Franco, a più tardi se va bene. Ciao, ciao Fra, ci sentiamo, dai. Fammi sapere poi quanti chili ne hai preso. Campo di positivo, ciao. Bisogna segnare. Ciao Franco, ma se così da scuola, come stai salendo? Passa dove sei tu, dove sono io domani mattina. Anzi fai, dammi che hai 4:30 mi trovi già in quel locale, vai. Avanti Carlo. Sono diciamo di, come si chiama, di... Sempre 9.5 sta arrivando, sempre 9.5, avanti già. E anche qua arriva bene Carlo, dai. Io non lo so perché sono con 4 watt, Carlo, come arrivo, però non voglio attaccare altri apparecchi, dai, non ne ho voglia, se no avrei attaccato l'altro. Non hai bisogno qua, sempre con l'altro, tutti sento fino anche se si con 4 watt, tutti sento fino all'aeroporto. KK, va bene, dai. No problem. Avanti a tu. KK, lo sento ancora, lo sento. Carlo, mi senti? Ehi Antonio, ti sento un po' più basso qua, ma già ti tiro fuori comunque. KK, dai, ti andrà bene. Sei entrato sulle 4 corsie, Carlo? Sì, già, 4 corsie, adesso praticamente tra 3-4 chilometri sono su quel sul video di Bancali, l'ultimo, e poi si monte di quel Rio Marno, capito, tra mezzo chilometro. Ho capito, dai, dove si trovi. Andava, dai, riprendi Marino, riprendi tu. Ancora sta arrivando abbastanza bene qua, ancora abbastanza. Oh, vabbè, io l'altra volta laggiù nel parcheggio dell'aeroporto, io ascoltavo qui a casa, abbastanza forte. Meglio vai, ottima antenna, ottimo apparecchio. Avanti, Bubolino. Capo, io mi devo, per il momento mi devo accontentare così. Aspetta, a febbraio, compro le staffe, compro. A livello di capisciuli, appunto lo faccio vedere io per se esce. Ma tu avete, ne porto un pesciolino, ma a fianco a pesciolino avete, pure sopra. Ah, di fronte. Ah, la porta di fronte, ok, vai. Perché un pesciolino abita al centro storico, vicolo del cane. Isa è coso, Isa è azzurrita. Ma la mica tu, Isa. Già, tranquillo, con me non ha mai avuto nulla, però. Prima che con me. Lasciamo perdere, avanti già. Poverini, sono un po' garendolucizzo. Conoscevo anche il padre e la madre io abbastanza, infatti sa. Ne conosco una vita, le conosco dunque, c'è la, per esempio, la sorella forse separata, Margherita lavorava con Fra, non so se c'è ancora, è stata a scuola con me Margherita. No, è su di no. Come? So di no io. Di no che sei, dove è separata? La separata. L'ho sentito, poi non lo so. Sì, ma io so che non lavora più da Conforama. Quello io non lo so, io sono parecchio che non lo vedo, ho capito. Però probabilmente abbia cambiato lavoro, non lo so. Non lo so, una cosa che non so cosa dire. Lui ha fatto le scuole sempre con me, la prima e la quinta. Beh, come si chiama quella che abita dove sono io con Canzi? Il nome? Caterina, no? E chi? Quella che abita dove lavoro io, a Cerro Storico. Teresa. Teresa quella lì, quella è la più, cos'è, più grande di Margherita? La sorella di Margherita. Ma come sta, cos'è, più grande o più piccola? Non me lo ricordo, forse la Margherita è più grande. Margherita quanto è me, Margherita? Allora, Margherita brava, la mia parola, sempre stata un bel viso del cazzo carina. Però è un po' una faccia volgare, sinceramente, poi con questi capelli che c'ha, lasciamo perdere. Poi c'è il compagno che vuole prendere il salato. E mezzo scemo il compagno, abita qua in zona, in campagna i fratelli. E mezzo giornato. Noi vediamo se c'è Gianni, se sono fatto, cavolo, dove sei adesso? Benissimo, oggi è sempre la manuazione, la festa è come segnale 8, se scende a 8, comunque va bene, dai, ottima antenna, complimenti, vediamo, scusate, se Gianni è entrato, Gianni, sei saltato, avanti tu. Io lo sento, pio, hanno appigliato Bezzona, quando era giovane, non so così tutto ora. E poi un attimino è sul telefono. Eia. Carlo, arrivato, sì. Cappa, dai, stai facendo la strada vecchia, ho capito. Dai. Adesso è attaccolato il radio. Cappa, ma mi senti a me? Marino, ma forse è andato al telefono, ma tu sei ancora. Che scusate, lo prendo io che mi ho chiamato per la cena, oggi in anticipo, poi ho abituato a cenare dalle 9 in poi. Beh, mio nipote c'ha fame, vuol dire. Ok, ciao Gianni, se ci sei, se ci ascolto, ciao caro, buon lavoro, ci sentiamo domani, se non uscite, ciao Antonio, saluto in tutti gli ascoltori per me, cura del cielo, prendi tu. Ciao a tutti, dai, che io mi sposto adesso. Ce la risentiamo, ciao a tutti. Ciao Carlo, Santiago 7 adesso, Radio 5, ok, a domani se conosciuto, buon lavoro, ciao. Io sono qui, mi hanno chiamato per la cena, ciao Gianni, se ci sei, cuore di padrone a domani, ciao ciao. Ari, ma mi senti meglio o meglio adesso? Come? Mi senti bene, sì. Sì, ottima conversione, benissimo, con tu. Già andare. Ok, ciao ciao, a domani, ciao. Attento Carlo. Sì, questo qua è un eco che continua, se tu tieni il tasto, il PTT premuto, continua all'infinito. Ecco, a voi Carlo. E allora questo qui è il Cobra. Come arrivo meglio col Cobra? Marino, sì. E Antonio? Cappala. Allora, vabbè, pensavo che fosse ancora in ruota. Comunque lo saluto, Marino, se ancora all'ascolto. Fra poco vado anche a cenare, vai. Sto accompagnando a te, come arrivi vado anche a cenare. Ah, tranquillo. Quando arrivi chiudo, non c'è problema. Voglio sapere se sto arrivando ancora via destinazione. C'è molto QRM anche. A volte stai un po' sparendo, poi ti riprendi, perché c'è molto QRM, Carlo. Ah, ma comunque ti ascolto bene, vai, non c'è problema. Ti ascolto sempre. Dove sei arrivato adesso? Carlo, se mi senti non ti ascolto più, vai. C'è molto QRM, vai, stasera non fa. Vabbè, dai, ti saluto e vado, vai. E non trabacco quando vai a trabaccare. Ciao, adesso l'ho sentito a Carlo, vai. Ciao Carlo, adesso ti ho sentito, dove sei arrivato? Ah, capito, vieni di fare quale fornitore, vai, sei quasi arrivato. Ci sentiamo, vai, io vado a cenare, me l'ho chiamato, vai, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Non so se senti a me Carlo, ma mi sembra improbabile.